Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Le nuvole salivano un versante della valle, ci investivano e scendevano rapide dall'altra parte. Appena sbucammo fuori dalle nubi, Filippo mi toccò la spalla e indicò più in basso due caprioli che si muovevano nella radura. Sono Alessandro Venturi, ho 42 anni, sono nato a Bologna. Da qualche anno abito a Ravenna con mia moglie e le nostre due bambine. Mi occupo di marketing a una catena di supermercati. Quando penso ai miei 20 anni, mi viene in mente questa immagine. Una notte passata a dormire su una panchina in un parco di Prato, dopo la notte di Maciste, la libertà e la voglia di scoprire il mondo. Luca. L'immagine che mi viene in mente dei miei 20 anni sono il gatto e la volpe di Pinocchio che prendono me e la mia collega sotto braccio a Epcot Center, Walt Disney World, mentre insieme dall'area mensa entriamo nel parco dall'ingresso dei dipendenti e maliziosamente ci fanno fare il giro del padiglione italiano, a braccetto, sotto il naso del supervisor, irritato, che però non può dire nulla perché i turisti si divertono a scattarci le foto. Francesca. I miei 20 anni, me la ricordo quella foto. Ero sdraiato sull'erba del parco di Crespi d'Adda, un pallone sotto la testa a farmi da cuscino, sigaretta tra le dita, risata di gusto e una luce buona ad illuminarmi. Gianluigi. Buongiorno a tutti, sono le 16:08, questa è Radio 24, è un martedì qualunque, 26 di marzo del 2013, continua a essere inverno là fuori, ma qui dentro si parla d'altro, qui dentro si parla di un'immagine ben precisa, dell'immagine che avete in testa quando pensate ai vostri 20 anni. 349-238-6666, che li abbiate compiuti 10 anni fa i 20 anni, che li abbiate compiuti 30 anni fa, quindi che ne abbiate 30 o 50, o che ne abbiate 40, 42, 43, 60, 70, cercate di ricordare, ce l'avete sicuramente impressa da qualche parte, un'immagine che racconta di voi e dei vostri 20 anni. 349-238-6666 è il numero per mandare sms. Devo ricordare ogni tanto che questo numero è il numero per mandare sms, non per telefonare, perché poi appaiono sugli schermi robe tipo ti ho chiamato, vedi la segreteria telefonica 333-333, oppure se avete un profilo Facebook e ce l'avete aperto in questo momento andate sul nostro, che è Voi Siete Qui Radio 24, è sempre quello lì, cliccate su mi piace, ci trovate l'argomento di oggi, ci trovate il pezzo di storia di Alessandro, perché da qui partiamo, lo facciamo tutti i giorni, partiamo da una storia, non c'è un argomento preso a caso, non c'è una notizia di cui parliamo. Questo è un programma in cui si raccontano le storie delle persone che hanno voglia di raccontarle. Le persone siete voi, la voce che la racconta è la mia, c'è un indirizzo email che è voi siete qui @radio24.it per inviarle. Quello che vi chiediamo è di mandare un episodio della vostra vita, una storia che dica qualcosa di voi, che però sia una piccola storia, una cosa che vi è successa, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine, e che, ripeto, in qualche modo racconti un pezzo di voi, una parte di lato, una piega, oppure una parte invece che è ben in luce e che quella storia identifica alla perfezione. Alessandro è la seconda storia che ci racconta, lo ha già fatto l'anno scorso e lo rifà quest'anno. Sono due storie completamente diverse, anche se parlano comunque di infanzia. Forse ve lo ricorderete, Alessandro, ve lo ricorderete perché la storia era una storia che era molto bella e perché aveva anche partecipato al live di fine giugno ed era stato presente, insomma era salito sul palco. La storia era quella della vincita al Totocalcio, ripeto, se ci siete passati ve la ricordate, racconta di questo ragazzino che col padre andava a fare la schedina al Totocalcio nei bar fuori Bologna, e una domenica pomeriggio, una di quelle nebbiose domenica pomeriggio, come diceva lui, ricordo le sue parole, di tanti pareggi nebbiosi, lui si accorge che quando Valenti, giusto? Paolo Valenti al 90° minuto legge la schedina, lui dice ragazzi qua ho fatto 13, e la sua vita prende una piega grazie a quel 13, nonostante non diventino milionari, quei pochi soldi che riescono a vincere col montepremi li investono in un appartamento e fanno un mutuo banalmente in un'altra zona della città. Alessandro ci racconta un'altra storia oggi, che è una storia semplice, di un'amicizia tra lui e Filippo, che si sviluppa intorno all'università, intorno al liceo prima, poi all'università, e poi c'è un'immagine ben precisa, ed è per questo che questo racconto in qualche modo si intitola Quando abbiamo avuto 20 anni, perché ricorda quell'immagine lì, quell'immagine che avete precisa nella testa o da qualche altra parte, che è l'immagine che avete in mente quando pensate a voi e i vostri 20 anni. 349-238-6666. Silvia scrive: la voglia di fuggire dall'Abruzzo, che però non è un'immagine. Francesco: la sensazione di libertà, che continua a non essere un'immagine. Vera scrive: sto vivendo i miei 23 anni, quindi Vera, ci sentiamo tra una decina d'anni. Alessandro: la gita scolastica a Praga, proprio in quei giorni compivo 20 anni, ho in mente solo sorrisi. Lina: 20 anni, quanti ne sono passati? Fino a qua dici, vabbè Lina, grazie, però l'immagine che Lina dà è diversa dagli altri. Ero immersa nei preparativi del mio matrimonio. Che non è così, no? Vedo facce basite dall'altra parte. In realtà è, secondo me, meno inconsueto di quanto pensiamo. Ci sono zone un po' nascoste che magari non vengono raccontate, in cui ancora adesso ci si... ancora, come se fosse un pezzo del passato, in cui ci si sposa a 20 anni. Qualunque sia l'immagine dei vostri 20 anni, 349-238-6666. Questa è la storia di Alessandro. Io e Filippo ci conosciamo al Sabin, liceo scientifico nel centro storico di Bologna. Lui cresciuto tra le risaie della campagna verso Ferrara, io abitante dell'estrema periferia. Due sfigati, in mezzo ai figli della classe dirigente cittadina. Sopravvivemmo in qualche modo all'apartheid dei primi tempi e superammo senza troppi danni la maturità, quando arriva il momento delle decisioni storiche. Io scelsi la facoltà di agraria, anche se all'epoca le mie conoscenze in materia si limitavano a una pianta grassa vinta alla festa dell'unità. Spiazzai tutta la famiglia, ma nessuno si oppose. Filippo invece, una sera di luglio, tornò a casa e annunciò ai genitori che voleva diventare pilota di elicotteri. Sua mamma alzò gli occhi verso la Madonna appesa alla parete. Il babbo invece, mungitore di Frisone, lo fissò per qualche secondo con sguardo assassino e poi gli disse: te ti iscrivi a veterinaria. Fu piuttosto movimentata quell'estate in casa Bignami. La madre a mediare tra uno che urlava di non volere finire a masturbare tori e l'altro invece che minacciava di interrompere i flussi finanziari al figlio inconcludente. La sfida finì in parità. Filippo si parcheggiò a scienze politiche e noi due passammo in simbiosi i successivi 5 anni della nostra vita. In quegli anni dell'università abbiamo passato tantissimi momenti assieme, quindi dalle vacanze ai giorni di studio assieme, alle gite o alle serate assieme a Bologna. Insomma, praticamente abbiamo passato tantissimo tempo assieme, abbiamo condiviso di tutto in pratica e parlavamo di tutto, quindi dai grandi progetti per la vita fino proprio alle singole boiate. In quegli anni tutto sembrava facile e vicino. Era come se il mondo ci girasse intorno e noi non dovessimo fare altro che allungare una mano ed afferrarlo. Ridevamo con poco e godevamo appena possibile. In 2 ore era come non avere paura del mondo. In 2 eravamo sempre insieme, mai soli, c'era sempre lui e io a fianco all'altro. Il nostro covo era Calinaro, una vecchia abitazione da contadini che i miei genitori affittavano sulle prime pendici dell'Appennino, a pochi chilometri da Bologna. Quella casa colonica isolata divenne la sede ufficiale dei nostri periodi di clausura in vista degli esami. Qualche giorno prima dell'esame, io e Filippo raggiungevamo Calinaro e ci recludevamo per i nostri giorni e le nostre notti di studio matto e disperatissimo. In realtà, anche durante quei giorni, ogni pretesto era buono per schivare una giornata di studio e fu con quello spirito che progettammo l'ascesa al Corno alle Scale, con partenza dal borgo di Pianaccio. Il Corno, a dire il vero, è poco più di un cocuzzolo con annesso parcheggio per auto. In estate viene invaso da mezza Bologna e in inverno offre un paio di ski lift, poco eccitanti. Ma secondo la mappa dei sentieri dell'Appennino Emiliano, l'escursione Pianaccio-Corno richiedeva un'impegnativa camminata di 5 ore. E per noi, essere di pianura, quell'impresa equivaleva a qualcosa tipo la conquista del K2. There is a crow moon coming in where you keep looking now. It is the hollow month of March now sweeping in. Let's watch phenomenon arise out of the darkness now. Within the light she is my storm and heroine. I left my heart to the wild hunt coming. I live until the call, and I plan to be forgotten when I'm gone. Yes, I believe in the fall. Oh. Era un giorno di fine maggio degli anni 90. Puntammo la sveglia alle 4 del mattino. Per l'occasione Filippo aveva recuperato qualche indumento montanaro da un baule di un imprecisato avo antico. Si presentò in cucina sbadigliando. Indossava pantaloni verdi di velluto alla zuava e una pesante maglia grigia di lana cotta. In pratica uno schutzen tirolese catapultato in Emilia. Io vestivo jeans e camicia da boscaiolo. Ai piedi scarpe da tennis marca Canguro, con delle suole dalla capacità di aderenza al terreno prossima allo zero. In cantina avevo poi scovato uno zainetto in tela grezza e pelo di coniglio. Filippo sostenne di aver visto un modello simile addosso a Ötzi, la mummia del Similaun. Lasciammo l'auto a pianaccio, facemmo qualche piegamento sulle gambe per scaldarci e cominciammo a salire in mezzo al bosco mentre albeggiava. Nella prima ora consultavamo la mappa, a ogni bivio, perché c'era il rischio concreto di finire in un bar tabacchi di Sasso Marconi piuttosto che in cima al Corno. Poi la vegetazione iniziò a diradarsi e noi ci orientiamo facilmente. Del resto non incontrammo mai un essere umano a cui chiedere informazioni. Eravamo completamente soli. In salita erano solo silenzi e respiri profondi. Quando la pendenza ci dava una tregua, partivano le discussioni a tema libero, cose tipo i film di Quentin Tarantino, la classifica dei migliori culi delle nostre ex compagne di liceo, o quella volta che Michael Chang servì da sotto contro l'handle a Roland Garros. Al passo del cancellino tirava un vento fortissimo. Le nuvole salivano un versante della valle, ci investivano e scendevano rapide dall'altra parte. Appena sbucammo fuori dalle nubi, Filippo mi toccò la spalla e indicò più in basso due caprioli che si muovevano nella radura. Se dovessi identificare uno spartiacque nella mia vita tra il prima, quindi la vita da studente, e il dopo, la vita da lavoratore con la famiglia e con i bambini, secondo me proprio lo spartiacque è lì in cima al Corno, perché comunque da poco tempo dopo le cose cambiarono, nel senso che andai in Olanda a fare un tirocinio e da lì cominciai a fare delle cose anche di lavoro, anche se stavo ancora facendo l'università. I caprioli si fermarono qualche secondo a guardarci, poi ripartirono verso il bosco. Non è che fossimo esperti di ungulati, io dal vivo potevo averli visti solo in gita all'elementare allo zoo di Pistoia, tra i lama e le capre tibetane. Filippo giurò comunque che fossero caprioli, anche se al massimo poteva averne incontrato un esemplare impagliato in qualche trattoria dei coli bolognesi. Poco più avanti mi vennero i crampi alle gambe. Ci riposammo qualche minuto nei pressi della fonte dell'uccelliera, ascoltando il rumore dell'acqua che dal niente sgorgava in mezzo ai sassi. Ci dissetammo e riprendemmo per l'ultima fase del cammino. Alla fine, dopo circa 4 ore di marcia, arrivammo sfiniti sul Corno alle Scale. Là in cima ci sedemmo su un masso e per qualche secondo rimanemmo immobili e muti, uno di fianco all'altro, lo sguardo fisso avanti a noi mentre il vento ci scompigliava i capelli, l'espressione tra l'ebete e l'estatico. Non esiste una foto di quell'istante, l'immagine è solo dentro al mio cervello e per me è il simbolo di quell'amicizia e dei nostri 20 anni, quando ancora tutto doveva succedere e la vita non ci aveva ancora chiesto di fare sul serio. Quel momento come pochi altri nell'esistenza in cui si è sospeso nel vuoto tra un prima e un dopo, un attimo di pura e limpida felicità. Still 349 238 6666, un'immagine che racconti i vostri 20 anni. Da qualche parte ce l'avete, andate a scovarla. Seduta sulle scale al matrimonio della sorella della mia ragazza, tra lei e l'altro, Laura. E poi ancora il golfo di Salerno all'alba del mio compleanno, 20 anni, sulla tradotta militare che mi portava a casa da lei, 1977. Agosto, la costa portoghese con la mia vecchia moto stracarica, nel mio viaggio estivo da solo, un mese di libertà, tanti incontri e anche l'amore ovviamente. T45, che non so cosa voglia dire, sembra il nome di una strada, è un po' il nome di una strada, è un po' un'età, un anno, non si capisce. Anche sul profilo Twitter, voi siete qui R24, Donatella, i miei 20 anni sono gli anni della libertà della barca a vela, Daniele, 112, tra parentesi auto, che potrebbe sembrare ricordo, il numero dei carabinieri, 112 cos'è? No, 113 carabinieri, no, 112 carabinieri. Ma sì, 113 è polizia, 118 è ambulanza. Niente, poi facciamo dopo un veloce tutorial sui nomi, giusto? Ok. 112, al mare, la mia A112, timidi approcci e tanta tanta solitudine. Daniele, questo messaggio mi sta veramente crepando il cuore, ti prego, scrivimi qualcos'altro anche, scrivimi che in fondo poi hai trovato qualcuno. Perché poi è arrivato un messaggio prima che diceva, giustamente, che c'è sempre tanta malinconia quando si pensano ai propri 20 anni. In realtà, se si fosse rimasto quella roba là, saremmo solo, dicevo un'altra parola, però, degli imbecilli. Quindi tutto quello che è venuto dopo è stato o perché l'abbiamo voluto o perché ci è capitato, però in qualche modo ci ha portato via da là, e per fortuna che ci ha portato via da là. 349-238-6666, Alessandro è stato portato via da là, non so in che modo, eppure, come lui dice, quando pensa ai suoi 20 anni, pensa a lui e Filippo in cima al corno alle scale. Pronto Alessandro? Eccomi qua. Ciao, come stai? Ciao, benissimo, grazie. Senti, prima ho ricordato anche la tua storia della scorsa stagione, non ricordo più quant'era la cifra vinta al Totocalcio. Ma erano sui 15 milioni. 15 insieme. Milioni, 15 una milioni rodetta, però. Di lire, che erano gli anni 80, sì. Giusto? Esatto, esatto. Perché tu hai, mi ricordi Alessandro, 43? 42. Qualcuno mi scrive, esiste ancora il Totocalcio? Esisteva sicuramente, adesso non lo so più. Esiste il Totocalcio? Lo chiedo a Fabio Cantadori, che è un esperto mi dice che esiste, però se ne parla poco. Ma esiste il 90° minuto che la fine dà il Montepremi? Vabbè, chi se ne frega, ne parliamo dopo. Alessandro, dimmi di Filippo, perché la prima cosa che mi viene in mente è appunto quell'immagine lì, la montagna e il tuo amico. Certo, Filippo è ancora un grandissimo amico, anche se ormai siamo distanti centinaia di chilometri, lui vive a Lugano, io a Ravenna, quindi ci vediamo veramente pochissimo, però ci sentiamo tanto, ci scriviamo tanto, è comunque ancora un grandissimo amico. Siamo stati anche testimoni di nozze uno dell'altro, l'uno dell'altro. Siamo super legati. Quindi insomma quell'immagine lì ha un senso, non solo perché rappresenta un'età, ma perché rappresenta un pezzo della tua vita, insomma. Anche lui continua a farne parte in qualche modo, e sei laureato in scienze politiche alla fine, sembro mia mamma, alla fine l'ha presa la laurea. L'ha presa, poi comunque considera che a dicembre dell'anno scorso ha preso un dottorato anche alla Sorbona di Parigi, insomma è diventato un personaggio un po' strano. E cosa fa? Non per farci i fatti suoi proprio in casa Bignami, però, perché tra l'altro, scusa, Bignami è il nome dei, perlomeno all'epoca mia, i Bignami erano i libricini sui quali studiare. Esatto. I Bignami, no, certo. Bignami a Bologna sì, è un nome abbastanza comune, sì, okay. Sia a Bologna che nella provincia. Lui comunque, cioè, se dovessi dire esattamente cosa fa, farei anche un po' fatica, perché di fatto gira parecchio per l'Europa, insomma, scova fondi dell'Unione Europea, per fare progetti che belli. Di formazione. I mestieri che non sai spiegare sono i migliori, esatto. In assoluto, perché sono i più sfuggenti. E perché se non li sai spiegare, in realtà il tuo interlocutore a quel punto è come disarmato, dice, esatto. Boh, chissà, esatto. Che cosa fa. Ed è ha sempre un'aura di grande interesse. Tu invece, Alessandro, sappiamo cosa fai, ti occupi di marketing per una catena di supermercati, giusto? Sì, esatto. E quindi cosa fa esattamente il marketing dei supermercati? Ti occupi di quei, come si chiamano, di quei pieghevoli che arrivano a casa, offerte del mese, olio Carli, quello no perché non è venduto nei supermercati, è stato l'unico che non è in commercio, bravo Matteo, olio, detersivi. Sì, è un po' quello, tutti gli aspetti commerciali, quindi dai prezzi ai prodotti che abbiamo, le promozioni, cose di questo tipo. Sono entrato occupandomi di ortofrutta, ovviamente, avendo fatto agraria, e poi adesso mi occupo di un po' di tutto, insomma. Perché tu poi l'hai fatta agraria? Alla grande, ho fatto agraria, mi sono laureato con appunto una tesi sui prodotti della grande distribuzione, e poi da lì ho cominciato. Ed è stata una scelta felice, quindi? Assolutamente sì, sono più che contento. Senti, torniamo a quei 20 anni là. Tu adesso ne hai praticamente il doppio, no? Giusto? Era il giro di boa rispetto ad oggi, più o meno. Che cosa ti è rimasto addosso di quei 20 anni, di quell'epoca? Ma la cosa bella è che mentre li vivevo pensavo che fosse il momento più bello della vita, no? Tutti quanti ti dicono che i 20 anni sono il momento più bello. Poi magari dopo mi sono accorto che il bello era anche dopo, anzi delle due sicuramente i 30-40 anni per me sono un grandissimo periodo della vita. E di allora comunque sicuramente la cosa più importante che c'era in quel momento era il tempo a disposizione. avevi un sacco di tempo a disposizione per poter fare quello che ti pareva. Dall'altra parte però magari non avevi neanche i soldi per andare in giro, quindi per cui, che so, Interrail, in giro per l'Europa, ma a dormire in stazione. Ok, mi conforta quantomeno Alessandro che non appartiene alla categoria «Ah, che bello quando avevo 20 anni», nel senso che sì, è bello, però diciamo non è l'unico periodo idilliaco della vita, giusto? No, no, dei due, guarda, secondo me c'è un detto dalle mie parti che usano i vecchi, no? Che dicono «quando avevo 20 anni saltavo i fossi per la lunga», secondo me invece i fossi più lunghi li salti dopo, dai 30 in avanti. Dalle mie parti invece nel Novarese questa roba si usa praticamente sempre per annichilire quello che è più giovane di te, non solo a 20 anni, alla tua età io saltavo i fossi per il lungo. È vero. Alessandro, ti ringrazio molto per questa seconda storia e ci vediamo al live di fine giugno se torni. Ah, se lo fai io vengo, molto bene. E come no, ti pare che non lo facciamo? Ancora stiamo cercando di capire bene come e quando, ma si farà sicuramente. Grazie ancora. Ok, a te. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao Matteo. Ciao. 349-238-6666, un'immagine che racconta di voi a 20 anni. Non so chi mi scrive purtroppo. 20 anni, il mio pancione che non mi faceva più entrare nel maggiolino. Oppure 1983, 5 di mattina, io con mio figlio in braccio appena nato. Ma ancora i miei 20 anni, Fabio Grosso, Italia-Germania, Italia-Francia e tanta tanta birra. Voi siete qui. È sulla spiaggia Alessandro, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui. È su una spiaggia perché si vede appunto la sabbia, quindi è inconfondibile, ma soprattutto il mare alle sue spalle. È l'ora del crepuscolo, quando comincia a diventare scuro e la spiaggia ormai è quasi vuota, e quindi alcuni che hanno voglia di godersela rimangono ancora lì. È uno dei momenti più belli da passare, probabilmente in riva al mare. Alessandro secondo me ha appena finito una partita di pallavolo, di beach volley, non so perché ma c'ho questa idea, forse perché c'è una rete vicino a lui. Ha una maglia arancione che io di arancioni così non ho mai visto nella mia vita, e ha la faccia sorridente. Ventenne, aggettivo e sostantivo maschile e femminile, che ha 20 anni di età, non comune, della durata di 20 anni, etimo composto di 20 e n, data 1879. 349-238-6666, la storia di Alessandro ci raccontava di un'immagine molto precisa che parlava dei suoi 20 anni, quindi l'idea è quella di cercare di capire nella memoria di ognuno di noi qual è l'immagine che racconta di noi quando avevamo 20 anni, se è molto diversa da quella che abbiamo adesso, se da quella che siamo adesso, oppure no, oppure anche no, che sia triste o che sia felice. Il mio 20° compleanno non lo posso dimenticare, ahimè era il funerale di mio padre, mi scrive Ale da Brescia, ma anche 20 anni festeggiati con l'acquisto della TV a colori. Era il 1976, ricordo la prima partita trasmessa perché era il Genoa e io sono sandoriana. Vilma, e poi ancora il compleanno dei 20 anni, l'ho passato all'ospedale, shock anafilattico all'ultima dose di vaccino per l'allergia. Wow. 349-238-6666. Qualche anno fa, credo ormai più di 5-6 anni fa, c'era un programma che non davano solo una fotografia, ma raccontava con precisione che cosa significava avere 20 anni in Italia. La persona che scriveva, conduceva e aveva ideato quel programma si chiamava e si chiama Massimo Coppola. Pronto Massimo, buongiorno. Buongiorno, ma se mi mettete così a tradimento il pezzo dell'Interpol muoio di nostalgia, così, secco. Beh, l'idea era quella di cercare di capire se davvero la memoria dei 20 anni è solo nostalgica. Tu non avevi 20 però quando facevi avere 20 anni, ne avevi già una trentina. No, ne ho fatti 40 da poco, quindi ne avevo più di 30. Senti Massimo, buongiorno innanzitutto, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. C'è un'immagine, proprio così a bruciapelo, c'è un'immagine che tu hai in mente, che ti torna in mente dei 20enni italiani che hai incontrato in quegli anni? Ma una sola è molto difficile perché, sai, i documentari sono stati più di 60-70 in 4 anni e quindi ho un frullatore di immagini. Ho delle concettualizzazioni ex post, c'era un fil rouge che univa l'attitudine di tutti questi ragazzi, di quasi tutti, era una specie di condanna inesorabile all'individualismo, cioè nessuno riusciva a trovare qualcosa in cui riconoscersi o in cui identificarsi, la politica men che meno, ma nemmeno i luoghi o istanze sociali o addirittura movimenti culturali, ecco. C'era una specie di autocondanna l'individualismo un po' inconsapevole. Questo era diciamo, il trait d'union più chiaro che è venuto fuori, secondo me, da quegli anni di lavoro. Senti, in tutte quelle puntate di Avere 20 anni, tu seguivi sia ragazzi comuni che studiavano, che lavoravano, e poi hai fatto delle puntate speciali, correggimi se sbaglio, in cui seguivi politici. Avevi seguito dei politici, mi ricordo la Meloni tra tutti, giusto? Sì, fece alla fine un film sulle elezioni scegliendo i quattro candidati più giovani. Più giovani. A quel tempo erano ignoti. Giorgia Meloni è divenuta ministro, Mara Carfagna, anche lei ministro. Le due di destra hanno fatto strada. A sinistra invece c'era Arturo Scotto, un ragazzo del PD, adesso dimenticato. Sì, sì, e Caruso, ricordate, Caruso. Era parlamentare. Certo. Non hanno fatto molta strada. Certo. La politica zero, l'idea mi venne proprio constatando questa assenza di possibilità di riconoscimento in istanze sovraindividuali. Che cosa c'era di diverso, Massimo, tra questi e i ragazzi, passami il termine, e i ragazzi normali? Cioè, che cosa aveva fatto arrivare dei giovani ad assumere e a ricoprire posizioni politiche? Sì, sì. Ma io credo che alla fine tutto sia psicologia, come diceva Kafka, quindi ognuno di loro aveva una storia personale diversa. Giorgia Meloni e Arturo Scotto erano simili in qualche modo perché erano proprio cresciuti a pane politica nelle tensioni locali, una dell'MSI e l'altro del PC prima che divenisse PD, PDS, eccetera, eccetera. La Carfagna, se ti dicessi cosa secondo me l'ha portata alla politica, possiamo di nuovo una immaginarlo. Quindi, ti ringrazio. Prima si rivelò di una impreparazione totale, aveva studiato a memoria quattro numeri, fu molto divertente perché lei non si aspettava da NTV, lei immaginava un'intervista leggera, l'NTV non sapeva chi io fossi, sono arrivato e le ho subito chiesto di problemi di politica estera su cui era completamente. Tutto questo si trova, Massimo, si trova su YouTube? Politica Zero è diventato un film che andò al Festival di Torino. Però dei pezzi, dico, riusciamo a recuperarli, magari li postiamo? Sì. Ok, sì, dopo li guardo, dopo li cerco. Li rubate in rete, guarda, credo che quella con la prima intervista con la Carfagna sia abbastanza facilmente recuperabile. Incontri ancora ventenni oggi? Ti capita di frequentarli? Frequentarli un po' meno, insomma. No, per frequentarli non intendo dire uscirci insieme, però di incontrarli per lavoro, per la vita privata. Considera che la mia casa editrice, ISBN Edizione, la mia casa di produzione, tutti i ragazzi che lavorano dentro hanno meno di 30 anni. Quindi insomma lì lavoro tutti i giorni con dei ventenni oppure degli appena trentenni e sono passati 10 anni da allora, giusto? Più o meno, no? Da quando meno, finì nel 2008 in realtà. 5 anni dall'ultima puntata che Vabbè, sulla sette. Non vedi moltissime differenze quindi in realtà? No, non so, guarda, c'è da un punto di vista sociale e politico secondo me c'è stata un'ulteriore regressione. Le ultime elezioni mi hanno convinto del fatto che in realtà sia l'italiano ad essere adolescente per sempre, in un modo o nell'altro, no? Se tu guardi le elezioni, io mi sono stupito ancora una volta di vedere come fosse un rapporto adolescenziale quello stabilito tra gli elettori di Berlusconi e Berlusconi, quindi le tette, i lustrini, il sogno, così, e anche coi grillini, no? Che volevano rimettere in scena l'assemblea del liceo, con lo stesso spontaneismo, no? E quindi credo che sia difficile parlarti delle differenze. Diciamo che il boom del web, che non possiamo approfondire adesso, ha certamente cambiato molto le cose, ma in generale io credo che neanche ventenni, io credo ormai che tutti gli italiani siano, che la maggior parte degli italiani siano presa di una sindrome adolescenziale, no? In cui è difficile essere lucidi e razionali. Proviamo, scusa, a spostare un attimo il fuoco, perché nel 2010 hai fatto un film che si chiama Hai paura del buio, che è ambientato a Melfi e che parla di questa ragazza rumena che viene a lavorare alla Fiat di Melfi. Tu hai fatto, leggevo, dei casting chiaramente in Romania, giusto? Quindi hai incontrato un sacco di ragazze. Hai per caso ti sei fatto un'idea se c'è, ma non solo per quell'esperienza lì, dico per tue esperienze all'estero, se c'è una differenza tra, rimaniamo sui ventenni se non ti dispiace, tra i ventenni italiani e quelli europei all'estero, est e ovest Europa? Beh sì, sono situazioni molto diverse che insomma, è difficile anche riassumere. Se parliamo dell'Europa occidentale, ti provo a pensare a quanto siano diverse la storia per esempio dell'Italia da quella dell'Inghilterra, anche rispetto proprio ai temi di cui parlavo prima, quindi il pop, il riconoscersi in qualcosa che stia al di là di noi stessi. Rispetto all'est, quello che ho visto è una energia, anche a volte eccessiva, è una... È un, cioè, Guarda, i ragazzi dell'Est Europa, quelli che hanno adesso 30 anni, somigliano secondo me agli italiani, ai francesi, agli inglesi del secondo dopoguerra, cioè sono una generazione che è uscita da qualcosa di in qualche modo traumatico, come fu per noi la guerra, e che quindi ha quella forza, no? La stessa che avevamo noi negli anni 50 e 60. Questa è una cosa che ho visto, c'è cioè un'energia, una forza. Poi ovviamente il discorso è più ampio, nel senso che ci sono anche lati veramente molto dolorosi, perché le città dell'est, per esempio, i paesi dell'est hanno metabolizzato molto facilmente il capitalismo, ecco, diciamo che arriva per equazioni sociali enormi, quindi è dura per i ragazzi lì, però mi sembra che abbiano veramente le palle. Qual è l'immagine, dei tuoi 20 anni, Massimo? Beh, questa è una domanda troppo difficile. Che cosa facevi a 20 anni? Questa è più facile. Beh, a 20 anni facevo Brand New in televisione, un dottorato di ricerca in scienze cognitive, andavo a vivere con la mia compagna del tempo. Non sei molto rappresentativo, insomma, quindi dei 20 anni. Hai iniziato presto. Guarda, io in realtà ho iniziato a lavorare a 19 anni, mentre iniziavo a studiare, da lì ho fatto sempre le due cose insieme, per cui... no, non lo so se non sono rappresentativo, poi sai, talento, fortuna, ognuno nasce in un posto e va così. Diciamo che no, non mi sono mai sentito rappresentato in quelle generalizzazioni, no? Il senza futuro, il precariato, non si trova lavoro. Sono sempre stato, come dire, un precario di lusso e fiero di esserlo. E poi ti saluto, l'ultima cosa. Qualche tempo fa ha cominciato a girare sui social, va bene, il modo in cui girano su internet queste cose, un pezzo del vostro, del sito della tua casa editrice, ISBN Edizioni, in cui nella parte manuali, manoscritti, non manuali, per l'invio dei manoscritti, avete scritto: astenersi dall'inviare romanzi storici, romanzi rosa, romanzi cui i protagonisti hanno soprannomi tipo Strippo, Scubio, Faina, romanzi di autofiction, e conclude la parte divertente, com'è la finale: storie di Sud Italia idilliaco, storie di artisti che hanno girato il mondo, tornano a casa e non si riconoscono, romanzi troppo letterari, romanzi in cui non succede veramente un cazzo. Quanti manoscritti ricevete al giorno e quanti di ventenni, se è possibile decifrarlo? Montagne, pubblichiamo al massimo uno o due italiani all'anno, perché siamo abbastanza esigenti, a volte anche accusati di essere un po' troppo. No, ne riceviamo montagne, ovviamente quello lì è un gioco, è uno scherzo. Però è anche vero che effettivamente, ma guarda, ti faccio un altro esempio: se abbiamo pubblicato un annuncio per cercare un responsabile del nostro spazio, no? Quindi doveva occuparsi di programmazione culturale, ci saranno arrivati 1000 curricula di aspiranti redattori, cioè una specie di, capito? Certo, sì, sì, sì, no, è chiaro. Col mandare il curriculum ovunque a prescindere. Questo ormai è abbastanza... Quella era una cosa scherzosa. Sì, sì, sì, però insomma... Era... Pubblicando romanzi rosa, capito, dover leggere 3 pagine e scoprire che poi è un romanzo rosa... Chiaro. Io ringrazio Massimo Coppola e i suoi 20 anni. Grazie mille, Massimo. Io ringrazio i miei 40 e i tuoi non so quanti. Siamo lì, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. 349-238-6666. Abbiamo finito anche oggi. Grazie Fabio Cantadori, Margherita Ina, Tiziano Bonini, e grazie soprattutto ad Alessandro, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Ciao, sono Daniele, sono nato e vivo in Versilia. La storia di domani è la mia e parla del mio primo traguardo. Questa è la mia storia e io sono qui.